l'arco d'un bel ciglio, sagittario d'amor, semplicetto d'argento io trafitto, ne trovando pietà nella grotta irrene delle sue acerbe pene e del suo immenso ardore. Sospiroso e dolente, un giorno in tale notte si bagnò con l'arcer piume inclemente. Tiranna, qualor senza pietà mi vibri il guardo, ma quest'anima esangue, miserabil trofeo di tua fierezza, vibri una nuova piaga. Onde aspersa di sangue, sui confini della vita, da miei pallidi lumi sta per fuggir, in maschera di pianto. Quando men fiera o bella la doglia che m'accora non raducissi ed in mercè non doni un tuo lampo amoroso a chi t'adora. piace è il mio plan. Vago amabile mio viso, lascia al men chi per ti sembra di piacer del mio tenor. Il piacer del mio tenor, del mio tenor. Del mio